ultima puntata stagione 2023-2024 con formazione consueta, prof allievo più notaio per il voltiamo pagina, la rubrica letteraria dei 103.1. Quindi il regalo che porto a Silvia, oltre che il buongiorno, è che oggi avremo un'ora piena per stare assieme. Buongiorno, oh, Silvia. Oh mamma mia. Spero di farti cosa gradita. Vediamo, speriamo di avere cose da dire. Ma certo, anzi, molte volte direi che il voltiamo pagina è quella che sfora. Quando sì, si ha sempre il timore di, alla fine si va a sforare. Beh, oggi siamo tranquilli in questa ultima puntata del voltiamo pagina, che avrà una puntata ulteriore per questa stagione, ma quest'oggi nella formazione che ho appena presentato è l'ultima di stagione. Quindi attenzione, 3331809494. Oggi lì libro è a sorpresa, lo metti in palio? No, il libro non lo metto in palio, perché questo tra l'altro è un libro che mi hanno prestato dicendomi mi raccomando deve tornare perché è dedicato. Si chiama Pietro? Si chiama Pietro, proprio. Classica frase che viene detta quando va prestata la cosa in questione. Oltretutto ho trovato in playlist, ma anche in questo caso non anticipo nulla. Beh, sei andata ad ascoltare il tuo idolo. Sì. Sì, infatti lo... Oh sì, che sorriso. Vedi il sorriso. Beh, piace molto anche a me, Robin. Chi ci ascolta non può vederlo, ma è un sorriso di gratificazione, di soddisfazione. Bravo, bella parola. No, sì, sono andata ad ascoltare Robin Hitchcock in un luogo chiamato Pratolino, di cui io gestivo il cimitero e le luci votive, il comune. Allora Vaglia. Sai che è bellissimo. Pratolino è meravigliosa. Sì, ma io ho visto dei posti, cioè io ho studiato, perché lì oltre che lavorare non riesco a definirlo un lavoro. Quella è stata un'esperienza di studio, e per quanto riguarda il territorio, nel Mugello, Pratolino Maccioli si chiama come nome esteso, è nel comune di Vaglia, è alle porte di Firenze, è originalissimo come posto, molto particolare. Sì, perché era una villa medicea che un qualche Medici aveva fatto costruire per la sua amante, e poi questa villa che pare fosse bellissima, che avesse dei meravigliosi giochi d'acqua. Ah, lì si imboscavano bene. Giardini eccezionali, perché è enorme. E la villa è stata rasa al suolo perché non riuscivano a mantenerla, abbastanza recentemente. E l'avevano preso questi Demidoff, si chiamano. Sì, questa. Notaio conferma. Questa penso fosse una famiglia molto facoltosa, Demidoff, che però hanno rimesso un po' a posto le cose alla fine dell'Ottocento, e adesso la villa non c'è più, però c'è rimasto prima di tutto questo enorme gigante di pietra, sì, fatto dal Gian Bologna, che è scavato nella roccia proprio, e che è lo chiamano il gigante dell'Appennino, dove c'è scritto, perché non si vedono più, che dentro c'erano appunto tutte queste caverne e era previsto per una serie di giochi d'acqua bellissimi, soprattutto notturni. E poi c'è rimasta questo palazzino molto bello, secondo me, che era la paggeria, cioè il posto dove abitavano i paggi e i nanni e i buffoni di corte. Chi intratteneva la corte. Sì, però era bellino, stavano proprio bene. Carino, stavano bene. Niente, c'era questo concerto di cui è venuto a conoscenza il notaio, perché come tu sai i notai sanno tutto, sì. Non so come. Questo concerto di te lo dico io, dai, basta. Beh, su internet. Questo concerto di Robin Hitchcock, come tu sai, io quando posso seguo oramai da un sacco di tempo. E quindi abbiamo preso su e siamo andati a vederlo. E è stato un bel concerto, devo dire. Lui ha fatto come fa di solito ultimamente, cioè una parte amplificata, era solo lui e chitarra. Sì, voce chitarra. Che ho visto. E poi alla fine i Bis è sceso in mezzo al pubblico e li ha fatti proprio unplugged. Unica cosa che a me veramente ha dato fastidio è che lui era su un palchetto piccolino, non un po' di fortuna, diciamolo pure, non illuminato, per cui il concerto sarebbe orari che piacerebbero a te. Certo. È andato dalle 6:30 alle 8 di sera più o meno. Okay. E quindi finché c'era la luce del giorno, con 50-60 persone al massimo. lì vicino, subito un pochino più in là, c'è un palcone immenso, non utilizzato, mega galattico, no, che lo utilizzavano per quelli che loro ritengono essere i concerti maggiori. Quindi ci andrà nei prossimi giorni Vecchioni, poi ci andranno i Pooh, il Volo. Beh, certo. Stai citando veramente dei personaggi massimi. Sì, però io per vedere Robin ho speso 10 euro. Il biglietto dei Pooh ne costava 90. Ma per l'amor del cielo, bene, perché hai avuto la possibilità di vedere un grandissimo, di ascoltare Robin, appunto, Hitchcock a un prezzo accessibile. Ma ci sono poi delle esagerazioni dall'altra parte che sono assolutamente... Però siccome io lo ritengo, appunto come te, un grandissimo, io... mi sono seccata io a vederlo rimesso lì, penso in quelle che condizioni, per cui qualcuno capisco. Poi ha scritto su internet: no, ma è lui stesso che ha voluto così perché è una persona ma comunque abbiamo i nostri dubbi. Tra l'altro, a Pratolino, se capitate, ultima informazione, non posso che darvela io: amate la Fiorentina, io sì tantissimo, allora andate da Antonio, non lo troverete. Ah, la Fiorentina e la bistecca, sì, dice. Certo. Non credevo la squadra. No, oddio, non mi sta antipatico, non la considero, ecco, come non considero il calcio in generale. Per quanto riguarda Antonio, che è un emporio dove la vendita comprende anche piccoli oggetti di ferramenta, comprende anche, essendo Pratolino molto piccolo e molto tradizionale, comprende una vendita generica. Se vi avvicinate al banco alimentari, vedete alcuni tavoli a vostra a disposizione e dietro c'è la griglia, per cui potete fermarvi a prezzi veramente convenienti anche in questo caso, avere una pausa molto molto gustosa. Ok, la Proloco Pratolino ha terminato le informazioni d'arte, musicali e gastronomiche. Iniziamo con il Voltiamo Pagina. Vedo, intuisco un'edizione Adelphi. Sì, è una riedizione. Sai che Adelphi sta rifacendo un po' tutto Simenon con la traduzione di questa nostra concittadina che si chiama Simona Mambrini, sono belle traduzioni. E quindi stavolta ha appena fatto uscire La Prigione, un romanzo appunto di Georges Simenon, che non definirei, anzi non è assolutamente un giallo, anche se comincia con un omicidio, però di questo omicidio ci viene subito detto il nome della vittima e anche dell'assassino, quindi sappiamo fin dall'inizio chi è chi è che ha ucciso chi. Non sappiamo perché, è forse la chiave, diciamo l'enigma del romanzo, se lo vogliamo intendere in senso giallo, è appunto scoprire il movente. Però in realtà questo è un romanzo fortemente psicologico in cui si analizzano in maniera molto molto sofisticata le reazioni del marito dell'assassina. Ah, è una donna? Sì. Okay. È una donna, posso anche dirlo perché tanto si impara nelle primissime pagine, è una donna che ha ammazzato sua sorella. Ok. Allora, si scoprirà quasi subito, proprio non sto svelando nulla perché questo accade tutto nelle primissime pagine. Che il marito ha avuto una relazione con la sorella. Ah. No, non fare perché questa relazione ormai è finita da tempo e da un anno, e la versione appunto che dà il marito alla polizia, che la sua relazione è finita già da tempo, è confermata da tutti, da coloro che li vedevano arrivare in questo monolocale che usavano per i loro incontri, dagli amici di lui, cioè chiunque sa che questa relazione era già finita. Quindi non fate quindi ho fatto non fate io. Non è stato non è quello il movente. Se come poi si verrà a supporre, potrebbe essere un assassinio passionale, però non è per causa del marito. Ecco, che cosa ci racconta invece Simenon? Ci racconta come questa tragica circostanza scombina tutto il castello di carte, direi, che questo personaggio si era costruito intorno alla sua personalità. praticamente sono le primissime pagine, le primissime parole del romanzo, proprio sono quanti mesi, quanti anni ci vogliono perché un bambino diventi un ragazzo, un ragazzo o un uomo, quando si può affermare che la transizione è avvenuta. Ecco, Simenon dice, questo qui, questo personaggio che aveva sempre vissuto tutto sommato fino a questo momento una sorta di attardata adolescenza, è lì che diventa uomo, ma lo diventa nella maniera più tragica possibile. Eh sì, anche poi in un caso cruento. E la giustizia, scusa, in questo caso... La signora si dichiara subito colpevole, okay. Per cui il romanzo si chiama La prigione. La prigione direi che è soprattutto la prigione interiore in cui si ritrova questo individuo, però si chiama la prigione anche perché lei viene subito arrestata. Sì, lei subito si dichiara colpevole, quindi non ti dico, per quello non è un giallo. Ma è un Simenon atipico? No, non è un Simenon atipico, perché poi quando lo leggi ci sono tutte le tematiche che io ho trovato negli altri romanzi di Simenon che ho letto, cioè il personaggio che a un certo punto cambia proprio, scava a fondo di se stesso e cambia, si rende conto che la sua vita è stata, malgrado i successi, è stata inutile, che non è soddisfatto di sé e che quindi può avere reazioni diverse, no? Che guarda gli altri in maniera così, fa un confronto fra se stesso e gli altri, fra la vita che poteva fare e quella che ha fatto. Insomma, mi viene in mente l'altro libro che abbiamo presentato qui, quello dove c'era il giovane povero, in fin dei conti, che era invidioso di quello ricco e che continuava ad arrovelarsi, no, internamente, e alla fine poi lo ammazza. Bisogna che io metta una pietra sopra questa mia sorta di pregiudizio e riprenda queste pubblicazioni, anzi queste riproposte, che semplicemente io conosco Simenon, mi piace Simenon e ho trovato dei titoli tra i quali alcuni anche che ho condiviso ma che non ho mai letto, perché li legge anche Pasquali. Allora ho detto, se li legge Pasquali non li voglio leggere io. No, guarda che qui proprio sbagli, perché Pasquali... Infatti, ogni tanto ci troviamo molto d'accordo su alcune tanto. Sì, è normale su alcune, certo, cose, certo. No, però su altre devo dire che ci troviamo d'accordo e che ha dei gusti anche abbastanza raffinati, diciamo. Il mio per certe pregiudizio, cose, ecco. E per quanto riguarda Simenon, devo dire che io confesso che ho cominciato a leggerlo proprio l'anno scorso, perché prima non che avessi dei pregiudizi, però pensavo che c'era qualcos'altro di più importante. Ho scoperto perché tutti dicono che è un grande scrittore, perché chiaramente lo è. Non ho mai letto Maigret, prima o poi mi metterò anche a leggere Maigret, però so che Maigret è additivo, che nel momento in cui cominci poi non finisci più e non leggi più nient'altro, dopo ti limita. Conosco, certo, tanta gente che poi dopo li vuol leggere tutti e non ha più letto altro, quindi Maigret per ora lo lascio per la mia vecchiaia. Prima dello stacco musicale ti chiedevo, sempre con il dovuto rispetto e come intendiamo noi questa definizione, è un libro da ombrellone? Allora, io Maigret, scusa, Simenon, lo leggo normalmente in viaggio, perché è un libro, sono letture che si fanno bene, che non ti chiedono più di tanto coinvolgimento, e soprattutto a livello psicologico e filosofico, se vogliamo. Sì. Però non la definirei mai una lettura da ombrellone, anche se sotto l'ombrellone ci sta benissimo. È quello che voglio dire io, però sai come intendiamo, sì, noi la lettura, ecco, come da la intendiamo noi, come la intendiamo noi. Sì, come la intendono le riviste femminili, no. Come la intendiamo noi, sì, senza dubbio. Io infatti lo leggo di solito, ti ripeto, quando sono in viaggio o quando... No, ma intendevo nell'accezione che noi portiamo. Una volta abbiamo fatto anche uno speciale, sì, su libri particolarmente adatti o per il viaggio, ok, allora mettiamola così, per il viaggio, per una gita, e alla fine in maniera molto draconiana. Sì, libri draconiana, sui quali, diciamo, non rifletti subito, che non ti richiedono una complicità, però poi alla distanza, sì, alla distanza ti rendi conto che ci rimugini poi dopo. ma sul momento li leggi così, un romanzo così in due pomeriggi lo leggi, ecco, perché vuoi andare avanti. Poi ne parliamo, perché non ho ancora detto niente in pratica. Ah, ma tu hai tutto il tempo che vuoi quest'oggi, guarda, però allora, metterei un po' di musica. Sì, io naturalmente si comincia con chi? Sappiamo che Simenon è belga, per cui si comincia con Brel, che è il più grande dei belgi. La mer du nord, pour dernier terrain vague, et des vagues de dunes, pour arrêter les vagues, et de vagues rochers que les marées dépassent, et qui ont à jamais le cœur à marée basse, avec infiniment de brumes à venir, avec le vent de l'est, écoutez le tenir. Le plat pays qui est le mien, avec des cathédrales pour unique montagne, et de noirs clochers comme mâts de cocagne, où des diables en pierre décrochent les nuages, avec le fil des jours pour unique voyage, et des chemins de pluie pour unique bonsoir, avec le vent d'ouest, écoutez le vouloir, le plat pays qui est le mien, avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu, avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner, avec le vent du nord qui vient s'écarteler, avec le vent du nord, écoutez-le craquer, le plat pays qui est le mien, avec de l'Italie descendrait l'Escaut, avec Frida la blonde quand elle devient Margot, quand les fils de novembre nous reviennent en mai, quand la plaine est fumante et tremble sous juillet, quand le vent est au rire, quand le vent est au blé, quand le vent est au sud, écoutez-le chanter, le plat pays qui est le mien. Le plat pays, non so se l'ho pronunciato. La pays, che sarebbe poi il Belgio, il paese piatto. Il paese piatto, infatti, così ho immaginato la traduzione, anche se dal francese ho giusto la R, ma è un caso, non è assolutamente d'origine quant'altro. Particolarità per quanto riguarda la puntata odierna, anche nel lavoro che presenterò in seguito, la prigione è protagonista. E quindi sì, non è assolutamente voluto tutto ciò, anche perché la sorpresa nella presentazione, secondo me, a meno che non sia un titolo uguale, ma abbiamo tante possibilità al voltiamo pagina. Beh, Silvia, hai detto invece tantissimo per quanto sì, però riguarda... non ho detto una cosa fondamentale, che questo personaggio è prima di tutto un personaggio giovane, perché ha 32 anni e anche sua moglie è giovane, ed è uno che a 32 anni ha fatto un successo eccezionale, ricchissimo, e ha fatto successo con una rivista. Ha lanciato una rivista, direi per signore, non so, che si chiama Toi, Tu. È una rivista che sta a mezzo tra il gossip, la rivista femminile, le interviste ai personaggi importanti, eccetera, e che vende a migliaia di copie, per cui in pochissimo tempo lui è diventato ricchissimo. Sua moglie è una giornalista, ma non una freelance, non lavora per la sua rivista, e hanno una coppia molto aperta, per cui anche per lui sarebbe strano comunque che questo delitto fosse stato passionale nei suoi confronti, perché loro sono estremamente liberi, lui soprattutto ha tradito e continua a tradire la moglie in tutti i modi possibili e immaginabili. Coppia aperta, sì, voglio dire. Soprattutto da parte di lui. Per cui a questo punto... Felicemente sposato, lui. A questo punto lui, di fronte a questo fatto, comincia a rivedere anche la sua vita, che gli sembrava così bella, no? Una vita dove lui passava tutto il giorno in redazione a casseggiare, diciamolo pure, tanto lui era il direttore di tutti, e a scegliere la segretaria con cui avrebbe passato qualche ora di intimità, diciamo, e la sera con la moglie se ne andava tutte le sere fino a notte fonda a gozzovigliare, appunto, bella vita. Anche lui pensava di avere una vita bellissima, un bambino di 5 anni parcheggiato nella villa in campagna insieme alla governante e a un giardiniere nella pazzeria, sì, che villa bellissima in campagna, che loro vedevano, bambino che vedono solo nel weekend, però dice: nel weekend andiamo là, poi ciao ciao, come sei carino, e dopo arrivano tutti gli amici e si ricomincia a gozzovigliare. Quindi questa vita molto, se vuoi anche dissipata, però cavolo, l'hai detto tu stesso, bella vita. Lui comincia a rimetterla in discussione, cioè a vedere dove poi sono arrivato, che cosa poi ho combinato. E tutto questo chiaramente porta a degli sviluppi finali abbastanza inattesi. Però, ti ripeto, è un libro in questo senso fortemente psicologico. Noi seguiamo questo personaggio dall'inizio alla fine, tutto è filtrato attraverso i suoi occhi, attraverso la sua visione. Sono, direi, non più di un paio di giorni nella vita di questo ragazzo, da quando la polizia arriva a casa sua e gli dice che cosa è successo, al finale, che è nel weekend, quando va a trovare il figlio. Ecco, tutto qui. Hai lasciato anche, tra l'altro, in questa bella presentazione un motivo sotteso, che è la ricerca concreta nel lavoro. La ricerca emotiva è infinita, ma nel concreto è la ricerca del movente. Sì, quello è, certo, il punto interrogativo che manca, insomma. Infatti anche lui in questi due giorni in qualche modo cerca di capire, lui pensa subito che sia un movente passionale e cerca subito di capire chi è allora l'altro uomo che le due sorelle si contendevano, però per fare questa ricerca chiaramente viene sia a mettere in discussione se stesso, sia a mettere in discussione l'immagine che lui aveva di queste due sorelle. A un certo punto, parlando con il padre, distrutto dal dolore di queste due donne, scoprirà che queste fin da bambine erano sempre state gelosissime una dell'altra. Una dell'altra, sì, una cosa che lui non aveva magari neanche colto, ma intuito. Quindi 8:23 minuti, come hai detto, si legge in due pomeriggi, e capisco anche perché non è il classico librone, tutt'altro. È una riedizione a Delphi che sta portando all'attenzione del pubblico un grande come Simenon. Il titolo è La prigione. Allora è il momento di Robin Hitchcock. Sì, liberiamo, non lo mettiamo in prigione, lo mettiamo nel lettore CD. Aspetta un attimo, vogliamo fare prima il quiz, perché il quiz è relativo al disco che abbiamo fatto sentire prima. Ah, ok, così c'è una continuità più. Sì, perché sennò se lo dimenticano. Certo, vai Silvia. No, è semplicemente, prima abbiamo sentito, come diceva, come ha detto anche Willy, Le Plats Pays, che è uno dei maggiori successi di Jacques Brel. Io vorrei sapere, ha avuto una cover italiana molto bella, vorrei sapere come si intitolava la cover italiana, che aveva un titolo molto diverso, e chi è che la cantava e che l'ha anche tradotta. Avec rien in my hand, comme toujours, je t'en prie, you know so much more than me, comme toujours, comme toujours, me voilà. orange car. It's just another possibility. It's just another waste of time. Comme toujours, tes bisous leave me more remote from you. Il y a beaucoup de mirages parmi les orages. It's just another possibility. It's just another waste of time. Toujours je t'ai fou. Thinking I could live with you. Tu es folle comme toujours. See this broken heart, it's yours. Comme toujours. Comme toujours as ever. I'm not trying to be clever, but I'll think of you forever. Comme toujours, comme toujours. Come to your Robin Hitchcock. Intanto saluto Sergio, saluto anche Jarno che però non ha azzeccato la risposta al quiz proposto da Silvia. Volutamente non sono stato a ripetere come faccio di solito a sottolineare, perché appunto oltre che per motivi di tempo anche per motivi così di dare la possibilità di trovarne un approfondimento in tutti i modi e un'attenzione. Quindi Silvia, ti invito a ripetere per portare a casa il libro a sorpresa relativo alla tua presentazione. Noi vogliamo sapere il nome del cantante, del cantautore anzi, che ha tradotto e cantato Le Plat Pays in italiano e il titolo italiano della canzone. Il brano è di Brel. Brano di Brel, Le Plat Pays. Chi l'ha tradotto in italiano, chi l'ha cantato e con quale titolo? E con quale titolo? Intanto che ricercate, noi andiamo in pubblicità e ci sentiamo tra pochissimo con il Voltiamo Pagina. Vi aspetto al 333-180-9494. Que ça te plaise ou non. tuerais moi-même, pauvre con. Torniamo in diretta alle 8:33 minuti per questo Voltiamo Pagina, ultima puntata stagione 23-24 con la formazione prof, allievo e notaio Silvio Albertazzi, William Piana e Stefano Calanchi per il Breakfast Club del magico mercoledì di Radio Città Fujiko. Playlist curata da Silvia in questo caso, che vede un protagonista, Jarvis Cocker, che è impegnato in un brano che stiamo ancora ascoltando, che è un requiem, è molto inquietante se vogliamo come sonorità, ma come titolo fa anche tenerezza. Beh, insomma, tenerezza. Requiem per un cane? No, no, requiem pour un con, requiem per un coglione. Mamma mia. È vero. Tenerezza proprio no. È le chien. Le chien. Invece C-A-N è quello che hai detto in francese. C-O-N. C-O-N. C-O-N, scusa, l'ho dovuto dire perché non c'è altra traduzione. No, certo, perché non c'è altra traduzione, anzi hai fatto anzi, in questo caso la correzione la accetto volentieri. Un'altra traduzione potrebbe essere ancora più... No, no, più, va bene quella. Va bene quella. Va bene quella, va benissimo quella, anzi è molto chiara ed esplicita. Ne approfitto per dire che la playlist di questa mattina... A parte Brel, che era doveroso. Che bella figura che ho fatto, vai, una delle tante. A parte Brel, che era doveroso perché per via della stessa nazionalità di Simenon, gli altri sono tutti cantanti o cantautori stranieri che cantano in francese. Quindi hai sentito prima Hitchcock, che mescolava un po' di francese e un po' di inglese. Questo invece è Jarvis Cocker, che cantava tutto in francese, da un disco che sono tutte canzoni famose francesi cantate da lui in francese. E questo è un pezzo di Serge Gainsbourg. Ah. Come sarà il pezzo che sentiremo dopo? Sono due pezzi di Gainsbourg. E dopo aver fatto la figura di Le Conc per quanto riguarda la mia interpretazione assolutamente in non mi devo lanciare. Ma mi è piaciuta molto la cosa, cioè fa tenerezza, ma insomma, tenerezza. Un cane, no, non è esattamente così, no, no, no, no, no. Poi ci può essere anche un cane, però insomma, dai. No, conoscendo Gainsbourg ci sta molto meglio quell'altro. Allora, abbiamo intanto un grande impegno da parte degli ascoltatori che hanno provato a rispondere alla tua impegnativa domanda. Ci aspettavamo la risposta da Sergio. Infatti. Però salutiamo Sergio, lo invitiamo a restare all'ascolto del Voltiamo Pagina. Giorgio Gaber è la risposta di Jarno da Calderara. No. No, Giorgio Gaber no. Ha tradotto un'altra canzone di Brel, Jeff. Poi c'è il buongiorno di Luigi, che non porta risposta ma porta parole bellissime. Vorrei ringraziarvi per la vostra preziosa compagnia. Buone vacanze, vi aspetterò con impazienza. Grazie. Buone Luigi. Buone vacanze anche a te. Buone vacanze anche a te. Grazie Luigi. Dino dalla Bolognina, questa pianura Gian Maria Testa. No, direi di no. Notaio? No, non c'è bisogno del notaio. No, però, non... No, direi di no. Però grazie, restate in ascolto. Ribadiamo appunto il quiz. Voglio più parlare francese. Dillo tu il titolo del... Le Plapi. Se per caso nessuno lo dice, diamo un aiutino. Qualche come aiutino. Si dice. Io vi porto in Irlanda per un villato eponimo dal mio gusto letterario, che però incontra, secondo me, diversi motivi importanti, non solo per il gusto, ma anche per lo scrivere bene. John Benville è uno dei protagonisti nella mia personale raccolta di libri. Tra l'altro di lui leggete tutto, come sottolineo sempre, per gli autori che nel cuor mi stanno. John Benville, parlando con te, mi hai detto che è un po' sgodevole come persona, o lo confondo con un altro? No, forse lo confondi con Colm Tóibín. Colm Tóibín, altro irlandese grandissimo. bellissimo. John Bainville non ho mai avuto modo di vederlo. John Bainville con la teoria delle singolarità viene stavo tradotto. Pensando se tu dicessi di lui leggete tutto di Simenon, bisognerebbe no, ci vuole no, una vita no, e mezzo no, di Simenon leggete quel, cadete sempre bene mi viene sì, da dire sì cadete sempre in piedi ecco dai. Con Bainville la teoria delle singolarità, guarda subito in copertina c'è una riga che veramente rappresenta dal punto di vista della struttura l'idea di un Bainville. Viene da The Irish Times, un distillato del miglior Bainville. È vero, è un distillato, è un motivo che racchiude ogni parte colta, intellettuale, di scrittura particolare di un grandissimo. E il notaio si sta palesando? Sì, il notaio mi sta dicendo che in effetti esiste una traduzione delle Plapei che si chiama Questa pianura, che è fatta da Gian Maria Testa. Attenzione però, adesso è arrivato da Matteo di Granarolo Herbert Pagani La Lombardia. Questo era quello che a cui pensavo io. Questo bene era... E a questo punto direi che abbiamo un vincitore. Sì, però sì, abbiamo un vincitore che è vuoi quello... dare un ex aequo? Mi invento un libro anche per Dino? No, vabbè, Dino ne ha avuti tanti, dai. Herbert Pagani, La Lombardia. Lombardia, ma... senza la... Sì, Lombardia. Matteo di Granarolo. Scrive anche Maria Carla, ma è arrivata un po' dopo, Conclude questo brano che teniamo come base, ma noi lo rilanciamo, di Miles Davis con il suo quintetto, un nuovo Matteo, è da Granarolo specificato, quindi sa che ci sono altri Matteo all'ascolto del Voltiamo Pagina. John Bainville, Irlanda, terra di grandi scrittori, con questa teoria delle singolarità, da un sugo di tutte le capacità letterarie che ha un grandissimo autore. Wanda ne ha portate diverse edizioni, diversi titoli per meglio dire, tra cui Eclisse, uno dei libri di Bainville che mi è piaciuto di più. Isabel ha vinto il premio Pellegrino. Ecco, questo non è un libro immediato, questo non è così da leggere, certo potete portarlo in vacanza o sotto l'ombrellone, diciamo che non fa parte di questa struttura o di questa idea di letteratura. Allora, il protagonista, a proposito di prigione, ha scontato una pena lunghissima per un reato gravissimo, per omicidio. Sconta la pena, esce di galera e si ritrova alla ricerca della sua infanzia. Così detta in maniera tranchante può risultare qualcosa di già scritto, ma anche dall'inizio e dagli incipit di prime pagine per la teoria delle singolarità troviamo una sensazione di ricerca nel ritrovare la libertà che è indescrivibile. Cioè, non so se Bainville ha intervistato dei condannati che poi hanno scontato la pena e quindi ritornano alla libertà. Nella descrizione di queste sensazioni troviamo di tutto, l'unica cosa che non si trova è la banalità. Anzi, tra una citazione letteraria, il consiglio di leggere altri lavori, e qui il consiglio viene da un grande, da John Bainville, per cui una lettura che ti porta a fare approfondimento anche su altri lavori e tante altre caratteristiche per una storia che veramente è una teoria delle singolarità. Per quanto riguarda il termine di questa pena lunga per un reato gravissimo, quest'uomo esce dal carcere ed è molto rispettato, nonostante la gravità del reato, un omicidio. Esce di tutto punto, esce elegantissimo, esce alla guida di un'automobile sportiva rossa fiammeggiante per andare in questa tenuta dove appunto ha passato l'infanzia. Trova tutto cambiato, ma veramente tutto, Dai proprietari, che infatti lui immaginava fossero altre famiglie, mentre invece trova una donna. Questa donna era della famiglia proprietaria, che infatti il protagonista non aspettava. Questa donna dirà: sì, io sono stata proprietaria, sono in buoni rapporti con i nuovi proprietari, che sono una famiglia che arriva da un capostipite che è stato un grande scienziato, da qui la teoria delle singolarità. Con questa ricerca scientifica ha portato veramente nello studio e nella fisica qualcosa che ha cambiato il mondo, per cui chi ne ha avuto i benefici sono i suoi figli. Uno in particolare che appunto abita in questa villa, in questa tenuta meravigliosa, dove nella paggeria vive questa signora che ha dato la possibilità di abitare i discendenti di questo scienziato molto quotato, e che la tengono anche in maniera molto amichevole, ma come custode, chiamiamola così in maniera molto immediata, come domestica, ecco, se vogliamo. E il rapporto tra questo ex carcerato e la domestica di questa tenuta subito inizia nell'incontro, con qualche motivo di scontro, c'è qualche così discrepanza fra di loro. Ma come, questo si ripresenta così, mi racconta delle cose che non c'entrano assolutamente nulla, però conosce il territorio e la casa alla perfezione, e già qui c'è una discrepanza che porta qualche sospetto alla donna che accoglie l'omicida che ha scontato questa lunghissima pena, quindi ora in libertà. Ringraziamo anche Paola che scrive: ciao, a me piace molto Simenon, ho letto parecchi romanzi, i miei preferiti Gli intrusi e Il gatto, ma sono tutti belli. Grazie Paola. Torniamo al racconto di John Benville, quindi questo scambio per la proprietà della villa, dimora e tempo di infanzia per questo carcerato che ritrova la libertà, incontra la domestica, la custode di questa villa, una volta proprietaria, che è passata al figlio, ai discendenti di questo scienziato che ha portato una teoria, la teoria delle singolarità, che ha cambiato nella fisica alcuni concetti in maniera molto importante, e questi si godono anche nella noia, se vogliamo, questa tenuta e questo spazio veramente molto bello, molto molto bello. Come è bella la moglie, Helen, la moglie del figlio di questo scienziato fisico ricercatore. Subito tra il coprotagonista ed Helen, il coprotagonista ha un nome molto particolare ed è falso, è Felix Mordaunt, e tra loro nascerà un motivo di dialogo, di ricerca dei tempi, di percorso, di quello che è successo e quello che è stato. Non dico una liaison, ma è un idillio che a sua volta porta una gelosia e un distacco dal marito, che ricordo è il figlio dello scienziato, del fisico famoso deceduto, e quindi tra i due c'è un viaggio di percorso emotivo nella storia di questa dimora, che diventa a sua volta singolarità. Non è un libro immediato, spero di averne data presentazione in maniera più chiara possibile. In tutto questo racconto, dimmi Silvia. No, volevo chiederti se è uno di quei libri in cui alla fine il protagonista è la casa. Alla fine la tenuta diventa molto importante. Sì, la casa è molto importante. È molto, non è protagonista, ma è molto importante. Qui il protagonista è Benville. Te lo dico, qui il protagonista è Benville. Io non sono infastidito dall'aspetto autocelebrativo, perché imparo, perché da tante di quelle citazioni letterarie ti dà tanta di quella curiosità che nel suo modo di scrivere, però analisi azzeccata, sì, questa tenuta già dalla copertina, no, con questo aspetto cromatico è abbastanza evidente che sì, lo è. No. non sarà esattamente un gioco a tre più una persona che fa da custode. Del resto anche il modo di raccontare e di scrivere però ricorda molto questi aspetti qui. È un percorso che ha diverse argomentazioni: il ritrovare la libertà, ma libertà fino a un certo punto, il ritrovare i percorsi di infanzia che però diventano loro stessi motivo di restrizione, una perdita di quella che è la situazione di consuetudine che si può trasformare in noia da parte dal personaggio che mi ha affascinato di più, è la bellissima Helen, perché trova in questo intruso un motivo. Oh, finalmente non posso più dire che barba che noia, che barba che noia. E come vi ho detto, ci sarà nella seconda parte del lavoro di Benville un scritto molto particolare, una scrittura molto particolare proprio a proposito di tutto ciò. È un libro per imparare la teoria delle singolarità, non la fisica, fortunatamente, anche perché io ne avrei molto bisogno, ma non sono assolutamente portato. È un libro per imparare dal punto di vista letterario, non è un libro immediato, è uno di quei libri che ti fa guardare dentro, ecco. E la scrittura riportata da Gwanda, che è alle pubblicazioni di John Benville, con questo lavoro uscito nel 2022, ne aggiunge un tassello che è veramente un distillato del miglior Benville. Ciao Silvia, ciao William, non ho mai letto Simenon, se dovessi cominciare ora che titolo mi consigliereste? Grazie Darko. Che titolo consigliamo ad Darko? Non lo so, potrebbe cominciare anche da questo, dalla prigione. È un leggermente atipico, ma se no, ecco, un libro che io ho letto recentemente di Simenon e che mi sembra che, dal quale si possa cominciare, è Il piccolo libraio di Arkhangelsk. Ci sono tante tematiche simenoniane, tra cui anche il problema della diversità. Un libro magnifico di Simenon, proprio sul fatto dell'accettazione dell'altro, è Casa Cruel. Ok, hai registrato tutto, Darko? Ecco i consigli. E per essere in conclusione, le 8 e 50 minuti con il quiz, e ricordo che potete ritirare entrambi i volumi non presentati, uno in premio così misterioso e l'altro invece ben concreto, che ne ho prese due copie, ve lo dico. Ne ho prese due copie, una per me e una per voi, di John Benville, Teoria delle singolarità. Mi sposto un attimo e vado in Scozia. Allora, in Scozia parliamo di musica. Un grande gruppo ha portato una delle hit in colonna sonora di un film che è omonimo del format che state ascoltando. Il format, appunto, è Breakfast Club. Ha qualche, diciamo così, avuto motivo di ispirazione, se vogliamo, ma molto molto molto labile, con il Breakfast Club film. Breakfast Club il format, un titolo molto bello che è stato un grande successo negli anni 80, anno anche di uscita, gli anni 80 del film Breakfast Club. Loro sono un gruppo scozzese, mi dite il nome di questo gruppo e per voi la teoria delle singolarità di John Benville. Abbiamo un altro stacco musicale, Silvia, che vado a lanciare, ed è... l'hai anche avuto come dedica. Sì, perché a Silvia, leggo. Sì, perché andai a un concerto, era il giorno del mio compleanno, di musica nuda, appunto, che sono Petra Magoni e Spinetti, non mi ricordo il nome, il contrabbassista Ferruccio Spinetti. E mi feci dedicare il disco. Questo è un altro pezzo di Gainsbourg cantato in francese da Petra Magoni. Abbiamo sbagliato, perché questo è in inglese. Il brano che dobbiamo sentire è Couleur Café, credo che sia il 5. Strano, perché a 5 corrisponde questo, eh? Oppala. Anche sul disco? Anche sul disco. Allora abbiamo, guarda dove il numero Couleur Café. Eh beh, sto proprio qua, ce l'ho davanti, capisco che, anzi, ti ridò la copertina. Intanto lasciamo questo, eh. Lasciamo questo, vabbè. Amen. Watching you, watching me. say goodbye. Make them love, it comes so easy. When you get to the part when you're breaking my heart. J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tout bracelet, joli bracelet. À tes pieds il se balance, couleur café. Que j'aime ta couleur café, couleur. Non ho fatto proprio del tutto la figura del Requiem in precedenza, in quanto il disco era doppio. Sì, doppio questa volta la figura l'ho fatta io, perché questo disco ce l'ho da una vita e non avevo mai capito. Ho sempre sentito questo e mai quell'altro. Allora Darko ringrazia tantissimo, Dino ha detto che passa volentieri perché ha diversi libri giustamente da leggere, e poi passo anche la parola a Paolo che, tornando ai brani in playlist, scrive: buongiorno, credevo che la musica francese della prof fosse il top, con quella belga mi sono dovuto ricredere. Hai capito? Grazie. La risposta è esatta, arriva, la più veloce però è stata Maria Carla, la risposta esatta arriva, ha riprovato Jarno che questa volta non riesce ad andare nel podio del Breakfast Club Voltiamo Pagina, come anche Paola, risposta esatta con Simple Mind. Oltre a essere la più veloce, Maria Carla scrive Don't You, che è la canzone di successo nella colonna sonora di Breakfast Club, Don't You Forget About Me dei Simple Minds, Maria Carla. Quindi Maria Carla, preparati perché ti leggi un libro molto intenso e molto particolare, John Banville, Teoria delle singolarità. Puoi già andare perché ne ho prese due copie, quindi è già una là che ti aspetta in via Irnerio 27 a Bologna alla libreria Ubic, che ringrazio per la collaborazione. Siamo arrivati al termine, Silvia, che dire, oggi ultima colazione, anche quella che ci attende tra poco, ma poi avremo modo di sentirci, dai. Io due parole di ringraziamento per un Voltiamo Pagina che, oltre che la qualità letteraria, ha portato ascoltatrici e ascoltatori molto attenti e numerosi per una rubrica letteraria che amiamo molto, ovviamente. Sì, l'abbiamo molto e quasi quasi mi dispiace che ci sia un intervallo. Abbiamo due appuntamenti, facciamo un last minute per il 2 ottobre. Perché abbiamo citato Ubi, che il 2 ottobre alle ore 18 presenteremo il lavoro raccolta di poesie, l'ultima uscita di Silvia Albertazzi. Lo presenteremo, ma abbiamo tempo. Abbiamo tempo, sì. Direi che è un last minute molto esteso. Comunque, se lo vogliono segnare, così non prendono altri appuntamenti. Visto che siamo riusciti a trovare argomentazioni fino alle 8.57, auguriamo buona lettura, un buon ascolto sui 103.1. Domani andremo in mostra, il Breakfast Club fino al 31 luglio procede. Io, Silvia, ti auguro un buon viaggio e grazie, una buona giornata. E io ti auguro una buona vacanza, una buona estate e una buona estate a tutte e tutti quelli che ci ascoltano. E anche Stefano si unisce a questo saluto. Certo. Ciao a tutti. Ciao a tutti, a domani da Silvia, William e Stefano. Ciao. Ciao.